e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo subito in apertura di alcune notizie, devo dire complessivamente positive, arrivate dagli Stati Uniti. Poi ci sposteremo a Francoforte, dove la Banca Centrale Europea ha deciso, come sapete, forse di lasciare i tassi di interesse invariati, quindi ai minimi storici anche nell'area euro. E poi andremo ad analizzare nella seconda del programma un taglio che adesso vi racconterò, deciso dal CIPE. 800 milioni di euro che dovevano servire per la realizzazione della banda larga in questo paese, ebbene non sono stati tagliati, però sono stati congelati fino alla fine della crisi, perché il governo ha cambiato l'ordine delle priorità e questo toglie soldi e anche acqua a Paolo Romani, vice ministro delle comunicazioni, e tra l'altro anche al ministro Renato Brunetta. La banda larga è un tema delicatissimo, perché spesso si parla di infrastrutture in questo paese dimenticando che le infrastrutture non sono solo quelle di cemento, ponte sullo stretto o Mose, ma sono anche e soprattutto quelle tecnologiche, per cui un paese in cui senza banda larga è un paese meno competitivo a partire dalle sue imprese e anche della sua pubblica amministrazione. 800 milioni di euro, questo ci sono già alcune dichiarazioni, alcuni dicono ma perché non si sono usati i finanziamenti disponibili per i Tremonti bond, visto che ne avanzano rispetto alla disponibilità 6-7 miliardi, ne parleremo nella seconda del programma. Oggi avremo anche un'intervista a un economista che da anni è in area e così in predicato di premio Nobel, mi riferisco a De Soto, sul come risolvere i problemi del terzo mondo, un'intervista che purtroppo abbiamo dovuto già rinviare rispetto alla scorsa settimana, e come risolvere i problemi di un terzo mondo che rischia di essere schiacciato più dei paesi occidentali da questa crisi finanziaria, dalla frenata del commercio mondiale. De Soto ha un'idea a mio avviso molto interessante, e cioè invece che dare tanti finanziamenti tramite organismi internazionali, ONU in primo luogo, ai paesi in via di sviluppo, meglio garantire i diritti e farsi garanti dei diritti legali, civili in quei paesi, per permettere la nascita di un protocapitalismo, di una iniziale classe piccolo e medio borghese. Ne parleremo dopo i mercati finanziari. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. I mercati intanto, seconda giornata consecutiva di rialzi, più 0,80% i due indici a Milano, Parigi più 1,1%, Francoforte più 0,90%, Londra più 0,70%, molto bene l'America, più 1,9% in questo momento sul Dow Jones e più 2,2% sull'indice Nasdaq. Euro a quota 1,48,80, quindi di nuovo vicino a quota 1,49. I titoli in pregiro più 5,2, Pirelli più 3,4 come Unipol, Autogrill più 3,1, Campari più 2,1, Intesa più 1,80, Telecom e Unicredit più 1,5 come Finmeccanica, l'1,2 la guadagna Mediolanum e anche Steamicro Electronics e Italcementi, l'1,1 il rialzo di Mediobanca e di Eni, l'1% quello di Saipem. Chi perde di più? Tenaris meno 1,3, Exor meno 1%, Popolare di Milano meno 0,80, Luxottica perde mezzo punto percentuale come Lottomatica. Volete giustamente già sapere di Telecom Italia più 1,6%, come ricordavamo, perché oggi Telecom ha diffuso i conti, terzo trimestre l'utile va a 200 milioni, l'utile netto a 200 milioni di euro, i ricavi calano del 5,5% a 6 miliardi e 770 milioni di euro, il margine operativo lordo è invariato E tra l'altro l'indebitamento sale. A fine settembre l'indebitamento finanziario di Telecom era pari a 35 miliardi e mezzo di euro, con 1,5 miliardi in più rispetto al 31 dicembre del 2008, quindi 1,5 miliardi in più di indebitamento nei primi 9 mesi dell'anno. Nel frattempo però Telecom ha annunciato di avere siglato definitivamente l'accordo con Telefonica, che è il socio principale dell'azionista di maggioranza di Telecom, che si chiama Telco. Dicevo, un accordo con Telefonica, la spagnola Telefonica, per cedere la controllata Hansenet, 900 milioni di euro il valore. Si vede già dei messaggi, la banda larga dopo la ripresa, come dire la cura quando sei guarito. Il punto, ma ne parleremo nella seconda ora, è proprio questo: se certi investimenti non vengono fatti adesso, è inutile farli quando la crisi è finita, perché rischiano di prolungare questa crisi e di comunque far uscire un'economia più debole rispetto a come c'è entrata dalla fine. Meglio fare interventi importanti appunto per aiutare le imprese a uscire. Vabbè, ma ne parliamo dopo, andiamo avanti con le notizie. In breve, di Telecom abbiamo detto, mentre Alitalia vede un risultato operativo di 15 milioni di euro nel terzo trimestre dell'anno. Allora, c'è un miglioramento rispetto al primo trimestre, tra l'altro meno 210 milioni, del secondo meno 63 milioni. Adesso fa più 15 milioni, c'è un miglioramento trimestre su trimestre. Certo, la perdita operativa da inizio anno si è ridotta, ma resta a 260 milioni di euro, che vuol dire sempre perdere quasi 1 milione di euro al giorno, festività incluse. Però è netta la riduzione di questa perdita, appunto meno 210 milioni nei primi 3 mesi, meno 63 milioni nel secondo trimestre, adesso più 15 milioni. Speriamo che sia anche l'avvio di un continuo miglioramento nella perdita di Alitalia. Dati contrastanti sul commercio, perché se ieri la Confcommercio aveva diffuso, e anche altri osservatori avevano diffuso dati di una vendita a dettaglio, di consumi in tenuta, consumi di maggiore qualità, ma insomma si privilegia la qualità e i prodotti con un alto rapporto qualità-prezzo, oggi invece Unioncamere, attraverso il suo centro studi, diffonde dati per cui sta risalendo leggermente la china all'industria manifatturiera, ma i consumi delle famiglie avrebbero nel terzo trimestre dell'anno fatto un passo indietro, meno 4,8% il calo delle vendite commerciali rispetto a un anno prima, cioè quasi un meno 5% di vendite nel terzo trimestre rispetto al terzo trimestre del 2008. Vabbè, delle possibili novità sull'IRAP, sapete dei nostri GR, questa mattina si è tenuto un vertice tra il Ministro dell'Economia Tremonti e i vertici della maggioranza del Senato. Lo scudo fiscale, secondo quanto avrebbe detto il Ministro dell'Economia Tremonti, dovrebbe portare nelle casse dello Stato un gettito tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Tremonti avrebbe anche aggiunto che in gran parte si tratterebbe di rientri effettivi di capitali per l'80% e non di semplici regolarizzazioni in loco. E in questo prosegue quella che noi abbiamo chiamato la guerra tra Svizzera e Italia. Non sappiamo se sarà l'Italia a invadere la Svizzera o la Svizzera invade l'Italia, però dopo che noi abbiamo messo le telecamere, il cosiddetto fisco Velox, alla frontiera di Chiasso per fotografare gli italiani che entrano in Svizzera, ci sono i poliziotti in borghese a Chiasso per prendere il numero delle targhe, il sindaco di Chiasso ha chiesto che questi poliziotti vengano denunciati quando scoperti in borghese. Addirittura oggi è arrivato l'aereo spia, manco fossimo in Afghanistan o in Iraq. Nelle prime 3 settimane di novembre il Canton Ticino farà decollare un aereo spia, un drone senza pilota, per sorvegliare da 3 km di altezza le zone di confine. Con raggi infrarossi riuscirà a fare le foto anche di notte. Questa è la risposta ai cosiddetti fisco Velox installati dalla Guardia di Finanza alla frontiera di Chiasso. E vabbè, cosa non si fa per i correntisti italiani in Svizzera. Andiamo avanti. La Ragioneria Generale dello Stato ha bocciato la proposta di legge sui benefici previdenziali per chi assiste un familiare disabile all'esame, proposta che era l'esame della Camera. La nuova norma che consente il pensionamento anticipato a 53 anni di età e 25 di contributi, di cui almeno 18 versati, nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile costerebbe a regime 1,5 miliardi di euro l'anno, a fronte dei 700 milioni di euro previsti dalla proposta. Ripeto, i fondi per la banda larga, gli 800 milioni del piano Romani-Brunetta per il superamento del digital divide, cioè del fatto che ci siano aree del paese e gruppi che hanno una velocità di un certo tipo sulla rete e altri che invece sono ancora a livelli primordiali, è stato congelato il fondo per questo piano, gli 800 milioni di euro. Era un piano complessivo da 1,5 miliardi, deve portare le connessioni da 20 megabyte al 96% della popolazione entro 2 anni, entro 2012, e almeno a 2 megabyte alla parte restante. Tra l'altro, negli altri paesi il nostro risulterebbe un piano proprio di base, minimo, perché stiamo già parlando di bande larghissime a 100 megabyte, per cui non so, nelle case tedesche questa connessione super veloce arriverà entro 2014, in Francia già 4 milioni di francesi hanno la banda larghissima, noi per arrivare a quella larga vedremo quando ci saranno i soldi, ne parleremo, abbiate pazienza. Adesso però il primo tema, la Banca Centrale Europea che mantiene i tassi invariati, e questo era atteso, e però oggi come sempre inizio mese c'è stata anche la conferenza stampa e qualche segnale confortante è arrivato anche da Jean-Claude Trichet, il numero uno della Banca Centrale Europea. Allora, tassi di interesse ancora a livello adeguato, scusatemi, per Jean-Claude Trichet. L'economia dei 16 dell'area euro migliora, la ripresa sarà graduale ma sarà nel 2010, serve ancora molta cautela, e poi l'inflazione che tornerà positiva nei prossimi mesi. Devo dire che in Italia è già tornata positiva, seppur di poco, più 0,3% l'ultimo dato. E allora il quadro economico, così come delineato oggi dal Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il livello attuale è appropriato considerando le informazioni disponibili. Il livello di inflazione in ottobre era meno 0,1%. Prevediamo che l'indice torni su valori positivi nei prossimi mesi e poi proceda con un andamento moderato. Le attese a medio termine per l'inflazione rimangono ancorate alla nostra missione di mantenere il tasso intorno al 2%. Allo stesso tempo, gli ultimi dati supportano la nostra visione di un'economia in via di miglioramento nella seconda parte dell'anno e ci aspettiamo una ripresa graduale nel 2010. La crescita trimestre su trimestre nella seconda metà di quest'anno dovrebbe tornare positiva. Tuttavia, il quadro resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza. However, uncertainty remains high. Così Jean-Claude Trichet. Vedo alcuni ascoltatori che mi correggono, chiedo venia, megabit, non megabyte, ancora sulle trimestrali è vero che è uscita anche Toyota oggi che ha segnato un utile a sorpresa, ma poi parliamo dei dati positivi arrivati dall'America, abbiate un po' di pazienza, così come dei bonus per i manager americani e del bilancio di BNP Paribas. Prima di tutto lo scenario, Beda Romano, il Sole 24 Ore, corrispondente a Francoforte, buonasera. Buonasera. Allora, mi sembra che insomma molto interlocutoria come riunione, però almeno le conferme sono arrivate, il 2010 sarà l'anno di una graduale ripresa, però avremo anche un graduale ritorno dell'inflazione. Beda, secondo te perché la Banca Centrale Europea sta evitando accuratamente di dare qualunque indicazione sui tempi della sua di exit strategy, cioè quando tornerà ad alzare i tassi? Ma credo che in questo momento il problema dei tassi non si pone, si pone il problema della liquidità. La banca ha inondato i mercati di liquidità fin dal 2007, cambiando le operazioni di rifinanziamento, dando al mercato liquidità a tasso fisso e ad ammontare limitato, con delle operazioni a 6 mesi e a 12 mesi, cosa che non aveva mai fatto in precedenza. E sta discutendo in questo momento del modo in cui riportare alla normalità le operazioni di rifinanziamento. Di aumento dei tassi è ancora presto per parlare, in parte perché l'inflazione è bassissima e in alcuni casi è negativa, in parte perché l'economia è ancora fragile, c'è una leggera crescita, ma il tasso di sovracapacità dell'industria rimane molto elevato. Quindi in questo contesto si pensa prima di tutto alla liquidità e poi successivamente ai tassi di interesse. Per cui come far tornare, cioè far affluire la liquidità in maniera più normale rispetto all'eccezionalità dei mesi della crisi. Tra l'altro lo stesso Trichet ha parlato di questo, ha detto attenzione, tutta la nostra disponibilità si andrà riducendo, il sostegno delle banche centrali non è eterno, e ha chiesto ai governi di iniziare a varare ambiziose exit strategies fiscali, cioè vie di uscita che, se capisco bene le sue parole, ma adesso le sentiamo assieme, dovrebbero sostanzialmente essere permeate da un grosso intervento di carattere fiscale sia sulle persone fisiche che giuridiche. Sentiamo. Diremo a tutte le banche, come del resto abbiamo sempre fatto, che il sostegno delle banche centrali all'economia, sostegno che è stato di fondamentale importanza, non può durare in eterno. E questa è una cosa che abbiamo ripetuto fin dall'inizio, non c'è niente di nuovo. Ciò che vogliamo ribadire è che la fase di uscita dalle misure non convenzionali sarà graduale, ma non voglio aggiungere altro per ora. Per saperne di più, l'appuntamento è al prossimo incontro tra un mese. Voglio sottolineare che i governi dell'area euro devono approntare delle ambiziose exit strategy delle misure di sostegno fiscale all'economia. Noi chiediamo alla Commissione e all'Eurogruppo di applicare alla lettera il patto di stabilità e crescita. Stiamo vivendo una situazione eccezionale, ma disponiamo di strumenti chiari, di procedure, di analisi e delle raccomandazioni da parte della Commissione. E questo è qualcosa che va applicato in modo preciso. Voglio sottolineare che dobbiamo capire bene che periodo stiamo vivendo. Se non siamo credibili sulla disciplina fiscale, il prezzo da pagare sarà molto alto. La fiducia verrà minacciata e di conseguenza la ripresa sarà minata proprio dall'assenza di fiducia e di credibilità delle misure di exit strategy. Allora, bella Romano, fiscal policies, le politiche fiscali, può voler dire, come molti paesi stanno cercando di fare, ci sta tentando la Germania e anche la Francia, non hanno molti soldi, una strategia di uscita da questa crisi che preveda anche un po' di respiro fiscale per le imprese e per i cittadini, per i consumatori, ma vuole anche dire, se ho ben capito le parole di Trichet, politiche attente ai conti pubblici. Esatto. E su questo la Banca Centrale Europea quale indicazione ulteriore potrebbe dare? Perché dire che i paesi devono uscire dalla crisi con un'attenzione ai conti pubblici quando tutti hanno un deficit intorno al 5%, la Francia un po' più basso, vabbè, vuol dire fare una bella dichiarazione di intenti, ma poi? Ma la banca oggi ha lanciato un messaggio chiaro su questo fronte. La banca sa perfettamente che la deriva dei conti pubblici negli ultimi 2 anni è stata necessaria, era inevitabile, era l'unico modo per evitare una grande depressione, e quindi per molti versi ha salutato positivamente la decisione dei governi di lasciare andare la spesa pubblica. Ma la banca è preoccupata a questo punto perché ci sono segnali di ripresa da un lato, la liquidità è sui mercati estremamente abbondante, tanto che, come abbiamo detto in precedenza, sta studiando il modo di riportare alla normalità tutte queste operazioni di rifinanziamento. In questo contesto non vede favorevolmente i tagli fiscali annunciati in alcuni paesi, a cominciare dalla Germania. La frase pronunciata da Trichet su questo fronte è chiara: tagli fiscali possono essere presi in considerazione solo nel medio termine, quando i paesi avranno sufficiente spazio di manovra. Il messaggio è indirizzato soprattutto alla Germania, perché la Germania ha un governo attualmente democristiano liberale che ha fatto campagna elettorale in settembre per tagli fiscali per circa 24 miliardi di euro nel 2011, e oggi in conferenza stampa, quando i giornalisti hanno chiesto a Trichet se il messaggio era indirizzato alla Germania, Trichet non lo ha negato, e sembra ovvio che la preoccupazione sia fondamentalmente in quella direzione. Ringrazierei Bella Romano in collegamento con noi da Francoforte e passerei al prossimo tema. Che si chiama borsa che ha chiuso bene perché ben intonata soprattutto in America, più 1,8% da alcuni dati, tasso di produttività americano più 9,5% nel terzo trimestre dell'anno, un dato nettamente superiore, ci si attendeva un 6,5%, quindi l'America sta tornando a marciare sulla produttività non agricola. E poi i sussidi di disoccupazione, questo dato è un po' più ballerino perché cambia di settimana in settimana, però questa settimana 20.000 sussidi in meno, per cui dato migliore delle stime, e complessivamente le richieste di sussidio sono state 512.000, 20.000 richieste in meno. E poi dal Giappone, a sorpresa, questa sì una sorpresa totale, la Toyota è tornata inutile nel secondo trimestre. Il Giappone ha dei trimestri un po' diversi dai nostri, ma insomma nel secondo trimestre dell'anno di bilancio ha fatto 162 milioni di euro di utile per la Toyota, che per carità rispetto all'anno fa è un 80% in meno, ma insomma è tornata a registrare utili, così come è tornato il gruppo francese BNP Paribas a registrare utili. Questa è una costante di molte banche americane e anche europee, 1 miliardo e 300 milioni di euro più 44% rispetto a un anno prima, quindi questa è proprio l'uscita meglio di ogni attesa delle banche d'affari. Anche BNP Paribas ha avuto i suoi problemi con i prodotti tossici, soprattutto Società Generale, ma insomma sono state bravissime, hanno ripulito tutto e adesso già macinano utili del 45% quasi in aumento rispetto a un anno fa. Complimenti alla banca BNP Paribas. La borsa. Corrado Poggi, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Giornata positiva soprattutto negli Stati Uniti, più 1,8% l'indice Dow Jones, bene anche a Parigi, più 1%, Francoforte più 0,6%, Londra mezzo punto percentuale, Milano si colloca in mezzo, più 0,90%. I titoli, allora, tutti vogliono sapere giustamente di Fiat dopo il piano Chrysler. Fino a poco tempo fa Fiat era esattamente invariata, zero, infatti ha chiuso con un meno 0,09, cioè niente. Male invece Exor, meno 2%, peggior titolo. La reazione su Fiat, poi passiamo a quelle su Telecom. Sì, hanno chiuso in ribasso, beh, Exor soprattutto, Fiat come dicevi invariata, principalmente per prese di beneficio dopo il balzo di ieri di circa 5%, 4-5%. Oggi sono arrivati numerosi report da parte degli analisti che sono generalmente positivi. Ad esempio Mediobanca ha dichiarato di aver trovato nelle informazioni che ha dato ieri Marchionne a Detroit i target indicati per la Chrysler sono superiori alle attese. C'è stato anche un interessante commento di Morgan Stanley secondo cui è probabile che si giunga nel 2011 a un IPO, un collocamento sul mercato della Chrysler, quindi una valorizzazione della controllata americana che chiaramente avrebbe dei benefici notevoli per la Fiat. Quindi nel complesso ci sono state le lezioni positive, sono stati alzati anche da parte di UBS, ad esempio è stato confermato il rating buy, ci sono stati anche gli aumenti di target price, ad esempio da parte di Equitas SIM da 8,8 a 12,3 euro, quindi nel complesso valutazioni positive. Da 8,8 a 12? Sì. Così, in un botto? 50%. Beh, si sono svegliati bene. Vabbè, Telecom Italia. Dopo i dati diffusi con un peggioramento dell'indebitamento netto di 1,5 miliardi, la cessione però di Hansnet 900 milioni, il titolo mi sembra che abbia reagito bene, più 2,1% a 1,14 euro. Sì, subito dopo la notizia della cessione di Hansnet il titolo addirittura era salito del 6% ed era andato poi in asta di volatilità. Quando è rientrato le quotazioni si sono poi assestate intorno a un più 2, più 3% e poi ha chiuso appunto a più 2,14. Chiaramente i mercati hanno reagito bene, la cifra di vendita della controllata tedesca è in linea con le attese del mercato, ci si aspettava fra i 900 e il miliardo, è giunta questa somma di 900 milioni che comunque appunto è in linea e quindi soddisfa i mercati. Pirelli, utile a tre mesi a 11,9 milioni, migliorano tutti gli obiettivi operativi per la Pirelli, perché l'utile netto appunto nel terzo trimestre ha fatto quasi 12 milioni di euro contro una perdita di 15 milioni di euro un anno prima, per cui nello stesso trimestre. Il titolo? Appunto, il confronto positivo fra questo trimestre e quello di 12 mesi fa ha chiaramente ha messo un po' il vento in poppa del titolo, che ha chiuso in rialzo del 3,27 se non sbaglio. E chiaramente è piaciuto ai mercati il fatto che sia stato migliorato il target operativo per il 2009. E il gruppo ha anche confermato di aver azzerato la partecipazione in Telecom e quindi diciamo che procede come previsto col suo piano. In pregilo tra le migliori, sì. Perché guadagna 5,2%. Fammi indovinare, di mezzo c'è il ponte sullo stretto. Esattamente, è il titolo che ha chiuso con il maggior rialzo di tutti, un più 5,22%, parlo ovviamente dei titoli del FTSE MIB. E gli analisti ritengono che sia perché domani c'è la riunione del CIPE, che dovrà decidere sullo sblocco dei fondi per alcune grandi opere, fra cui appunto il ponte sullo stretto di Messina. Lì i soldi ci sono, per la banda larga no, vabbè, anche di questo parliamo più avanti. Ancora, tra i peggiori, oltre alla già citata Exor, anche Tenaris meno 1,8, Popolare di Milano meno 1,3, Banco Popolare meno 0,7, come Luxottica, lo 0,1 lo perde Ansaldo STS, che molto aveva guadagnato ieri dopo la trimestrale. Invece, oltre in pregilo più 5,2, Unipol più 3,7, Pirelli l'abbiamo detta, Autogrill più 3%, Telecom l'abbiamo detta, Campari più 2, Intesa più 1,7, Unicredito più 1,4, Parmalat pure, l'1,2 lo guadagnano i tacimenti Finmeccanica, l'1% è rialzo di Steam Microelectronics e di Mediolanum, ma anche dell'Eni. Snam Rete Gas più 0,90 come Saipem. Il migliore in assoluto, Landi Renzo più 10%, presente, e Icon più 9,7, Safilo più 7,4%, l'aeroporto di Venezia più 7%, del Canfin più 6% e anche Renault più 5,2%. Il peggior titolo, Roma Calcio, meno 5,7%, Tiscali meno 3,6%, Ratti meno 3,4%. Grazie, Corrado Poggi, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Allora, occupiamoci di un tema che spesso non riusciamo a toccare, anche perché in questi mesi la crisi, le sue conseguenze, le sue evoluzioni hanno avuto il sopravvento. C'era un'area del mondo più dominante che dalla globalizzazione, con tutto quello che si può dire di male della globalizzazione, aveva ottenuto degli oggettivi benefici. Mi riferisco ai paesi in via di sviluppo, decine di milioni di persone che in questi anni sono usciti da un livello di povertà vera, cioè di povertà non relativa. In questo momento proprio l'Africa, in alcune parti del Sud America e alcune parti dell'Asia, anche se lì l'effetto Cina riequilibra, rischiano di essere ricacciate indietro di anni. Perché? Perché il commercio mondiale si è bloccato, i consumatori occidentali consumano meno, acquistano meno, le economie sono ferme, e allora i paesi in via di sviluppo, che sono quasi sempre fornitori di materie prime, quasi mai trasformatori, vanno in difficoltà. Ne parliamo perché alcuni giorni fa era in visita in Italia Hernando De Soto, che è presidente dell'Istituto per la Libertà e la Democrazia con sede a Lima, è peruviano, ma soprattutto, come dicevo, è da anni in odore di premio Nobel. Perché? Perché De Soto sostiene, detto brevemente, che per salvare il terzo mondo, per far uscire il terzo mondo dal sottosviluppo, basterebbe non continuare con gli aiuti UNICEF, che vanno bene nelle situazioni di emergenza, ma poi sappiamo dove vanno a finire questi soldi, nelle tasche dei corrotti gerarchi o comunque burocrati di quei paesi. Basterebbe che in questi paesi fosse garantito, e l'Europa, l'Occidente dovrebbe dare una mano, garantiti i diritti civili che da noi sono dati per scontati. Ne dico alcuni: il diritto alla proprietà. In tutto il terzo mondo la proprietà non è un diritto, per cui anche la casa, la catapecchia, se fosse garantita come diritto, permetterebbe alla persona che vi abita di avere qualcosa da vendere un domani. Non ci sono certificati, non ci sono atti notarili, non ci sono catasti, non c'è niente. Pensate cosa sarebbe l'Italia senza questi diritti sulla proprietà. E il diritto, per esempio, all'assicurazione: non esiste l'obbligo di assicurare macchine in nessuno di questi paesi, il che vuol dire che ogni incidente te lo paghi. Tutto questo impoverisce sul fronte del patrimonio e soprattutto non permette una pianificazione della propria vita. Poi arriveremo a sentire anche cosa ne pensa Hernando De Soto sulla crisi che ha travolto anche il terzo mondo. Ma sentiamo in un'intervista con il collega del Sole 24 Ore Marco Magrini questa cosa basilare, perché secondo me non se ne parla troppo poco: come far uscire il terzo mondo dalla povertà semplicemente garantendo che vengano garantiti i diritti civili basilari in termini appunto di proprietà ed economia. I paesi che hanno diritti di proprietà più o meno chiari sono il Nord America, l'Europa occidentale, alcuni paesi dell'Est Europa e certi paesi asiatici che si sono fortemente sviluppati negli ultimi 50 anni, come Malesia, Giappone, chiaramente, Sud Corea e Taiwan. Questi paesi insieme raccolgono circa 1 miliardo di persone su oltre 6,5 miliardi in totale. Quindi rimangono fuori dal diritto di proprietà più di 5,5 miliardi di persone. Se escludiamo 700 milioni di quelli come me, ossia terzomondisti ma occidentalizzati, i restanti 5 miliardi di individui non sanno chi possiede cosa. Succede così in molte parti dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia. Pochi giorni dopo l'11 settembre, gli investigatori sapevano tutto sugli attentatori: alberghi, acquisti, case affittate, scuole frequentate. E sapete perché? Perché il diritto di proprietà implica di tenere traccia di tutte queste cose. Ma poi si guarda all'Afghanistan, dove Osama Bin Laden non è ancora stato catturato, perché là non c'è alcun diritto di proprietà. La stessa cosa succede in Messico. Direi quindi che il diritto di proprietà è debole laddove il sistema delle informazioni è debole, perché il diritto di proprietà è fondamentalmente fonte di informazioni. Queste ultime non sono solo dei dati su internet. Sono dati che vengono confezionati in modo da essere riconosciuti. E il metodo principale per riconoscere le informazioni è attraverso la tracciabilità derivante dal diritto di proprietà. Voi pensate cosa sarebbe, lo ricorda spesso De Soto, se tutti i milioni di abitanti delle bidonville, dei ghetti, potessero aver riconosciuta la casa, che so che a noi sembra, lo è, una catapecchia, ma la casa come proprietà avrebbe un valore economico per noi irrisorio, qualche centinaio di dollari forse, ma sarebbe una proprietà che tu puoi trasmettere ai tuoi figli, non sarebbe carta straccia come adesso, perché nessuno certifica che quella casa è tua. A noi sembra incredibile, perché siamo abituati da sempre che esista l'asse ereditario, che esista il diritto di proprietà, che esistano i diritti civili, e invece così non è nella maggior parte del pianeta. Se per magia l'ONU, invece che occuparsi solo di mandare giù gli aiuti, magari è anche d'accordo con alcuni grandi gruppi mondiali, si occupasse di vedere che i paesi in via di sviluppo, per ricevere magari gli aiuti, attuassero un vero diritto civile di proprietà, e quindi tutti i 5 miliardi di abitanti del pianeta potessero avere gli stessi diritti di cui abbiamo noi, cosa succederebbe all'economia di quei paesi? De Soto. Prima di tutto significherebbe che tutti facciamo parte dell'economia globale. Oggi solo il 30% della popolazione è coinvolta nel sistema globale dell'economia. Il restante 70% è ai margini. Ciò che accadrebbe sarebbe una divisione del lavoro tra tutti e una maggiore prosperità, come è successo per i cinesi quando hanno deciso di adottare il diritto di proprietà. Il Giappone, per esempio, non aveva un diritto di proprietà fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e da allora è diventato una potenza economica. Il diritto di proprietà rappresenta sicuramente un grande affare. Non è solo una questione di organizzazione. Si tratta di dare delle regole, delle leggi che possano essere riconosciute. Anche nelle parti più remote dell'Africa o dell'America Latina, le popolazioni sanno chi ha cosa e dove si trova. Ma è un tipo di conoscenza a livello locale. Ciò che deve essere fatto è costruire sulla struttura che già questa gente possiede e inserire il risultato in un sistema più ampio. Occorre che venga standardizzato, e facendo questo passaggio si compie una sorta di rivoluzione industriale. Si arriverebbe così a un metodo universale per sapere chi possiede cosa, che sia un pezzo di terra o un contratto, ma anche soldi, idee. Solo andando in questa direzione si ha un processo di sviluppo, perché vengono coinvolti prima il concetto di legge, poi di giustizia e infine di democrazia. Andiamo avanti con De Soto e quindi con la sua teoria che per salvare milioni di poveri del terzo mondo basterebbe che venissero riconosciuti i diritti di proprietà a queste persone, del pezzo di terra, della baracca in cui vivono, sarebbe già qualcosa, per quanto pochissimo, ma qualcosa da avere come proprietà, come diritto e anche da trasmettere come eredità. Vedo che alcuni di voi contestano questo approccio, mi sembra perché però l'approccio dell'aiuto incondizionato al terzo mondo non abbia portato grandi risultati. Comunque Marco Magrini con Hernando De Soto ha discusso anche di come questa crisi si sia generata, vista dal terzo mondo più interessante o perlomeno più originale rispetto a tante altre versioni che già conosciamo, e di come da questa crisi si potrebbe uscire. Per quello che riguarda tra l'altro il Sud America, è vero che in molti paesi esiste la proprietà privata, in Argentina esiste, ci mancherebbe, non esiste per milioni di persone anche in Sud America quando appartengono alle fasce più marginali della popolazione, quando abitano nei ghetti o nelle bidonville, e di questi ci stiamo occupando in questo momento. Poi passeremo alla banda larga e alle scelte e alle priorità che si dà un paese quando ha pochi soldi da spendere. Comunque De Soto sul perché gli stati occidentali non fossero pienamente consapevoli di questa crisi. Unconscious because every time I coming from Latin America. Non consapevoli delle cause che hanno portato a questa crisi. Ogni volta che lascio l'America Latina, vedo come gli occidentali spiegano le ragioni della loro crescita economica. Viene sempre citato l'aspetto della civiltà e della cultura occidentale. Non credo però che sia una risposta valida. Non credo sia sufficiente rimandare alla propria educazione o cultura. Penso invece che il successo di cinesi e indiani ora, come dei giapponesi prima, abbia poco a che fare con l'aspetto della civiltà in senso lato, che è qualcosa che non si può imparare né insegnare. Credo che il successo di questi paesi abbia molto a che fare con un sistema legale che è andato via via migliorando nel corso dei secoli. Sono ancora pochi coloro che all'interno del sistema finanziario ed economico si concentrano sulla qualità del diritto. C'è anche un altro motivo per cui penso che i paesi occidentali non siano del tutto consapevoli di quanto è accaduto. Un esempio è il fatto che non c'è accordo sul perché è scoppiata la crisi. Alcuni dicono per i mutui subprime. C'era probabilmente $1 miliardo in mutui subprime, ma non credo che abbiano innescato 60.000 miliardi di perdite in un anno. Molti indicavano che la causa della crisi era il denaro facile, ma allora perché anche l'America Latina non è stata travolta? Anche da noi c'è denaro facile. Credo invece ci sia dell'altro. Credo che il sistema non fosse più in grado di essere controllato e nessuno sapeva spiegare il perché. Ultimamente sento dire che siamo sulla via della ripresa, ma in giro vedo sempre più disoccupati, imprese che chiudono, e negli Stati Uniti il fallimento di oltre 400 banche. E allora è tutto attorno al diritto e quindi all'esistenza di regole, di norme che ruota l'approccio economico di De Soto. Avete sentito, i paesi occidentali si sono sviluppati, il capitalismo si è sviluppato attraverso il diritto. Questa crisi è originata, secondo De Soto, non tanto dai mutui subprime, che sono la parte finale, l'epifenomeno, si direbbe con un linguaggio un po' alto, ma dall'assenza di diritti, di regole e di norme, di controlli. Ultimo passaggio di questa intervista: cosa capiterà nel futuro? È difficile dire cosa accadrà ora, perché l'economia di mercato è diventata così complessa. Ho letto libri molto interessanti e celebri sulla recessione e tutti hanno sbagliato le previsioni di 4 o 5 anni. Era stato indicato il periodo 2002 e 2003, ma come sappiamo la crisi è arrivata nel 2007. E il perché sta nel fatto che il fattore psicologico pesa moltissimo. È come il cancro, non si sa esattamente quando arriverà. C'è la voglia di vivere, si cerca di posticipare il peggio, ma si sa che arriverà prima o poi. Quindi non so esattamente quando il peggio passerà. Molto dipenderà da quanti asset tossici sono rimasti nelle banche. È chiaro che il nodo ora è l'eccessiva liquidità che può generare di nuovo un forte declino. E questo può derivare dal fatto che il credito potrebbe non andare dove ce n'è bisogno, per esempio alle imprese, o perché ci sarà più disoccupazione, perché non ci sarà ancora abbastanza credito. Del resto, questa crisi è stata definita la crisi del credit crunch a causa della mancanza di credito sul mercato. In ogni caso, le difficoltà continueranno finché le banche non si sbarazzeranno del tutto di asset tossici e ci si potrà fidare nuovamente degli istituti bancari. In questo momento la fiducia è nel fatto che il governo americano e il G20 non lasceranno fallire le grandi banche, ma nel momento in cui cesserà questa fiducia nel governo, allora saremo di nuovo in recessione. Cambiamo tema e ci occupiamo di banda larga, ossia uno può pensare, vabbè, la banda larga. No, attenzione, è un'infrastruttura a tutti gli effetti che aumenta la produttività del paese nel suo complesso, della pubblica amministrazione e delle singole imprese, ed è un investimento in infrastrutture, quello di far viaggiare le informazioni a velocità altissima, già compiuto da altri paesi. La banda larga che cos'è innanzitutto? È la possibilità di portare, questo era il piano ideato dai ministri Romani e Brunetta, di portare entro il 2012 le connessioni da 20 megabit al 96% della popolazione e almeno di 2 megabit alla parte restante del paese. 20 megabit inizia a essere una velocità, lo dico a chi non fosse esperto, interessante, perché è una velocità seria per lavorare, voglio dire, un normale computer connesso adesso se ne fa 7 sono tanti, è grasso che cola. Negli altri paesi, Germania e Francia nel caso specifico, in Germania arriverà la connessione super veloce, cioè già più alta della nostra banda larga, si parla di 50-100 megabit, quindi dalle 2 alle 5 volte la nostra banda larga, arriverà nel 2014 su 2/3 delle case tedesche. In Francia entro il 2012 già 4 milioni di francesi, di case, di famiglie avranno la banda super veloce o banda larghissima. Allora, oggi che cosa è successo? Che il CIPE ha congelato gli 800 milioni del piano Romani Brunetta, che su un totale di 1,5 miliardi, che dovevano essere utilizzati per fare partire questa banda larga da qui al 2012. Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, dicendo che attenzione, sono congelati finché non finirà la crisi e visto che il viceministro Romani ha detto di ricorrere al mercato finanziario se i fondi pubblici non saranno disponibili, ha detto faremo l'uno e l'altro. E allora vedo già molte contestazioni, il ponte sullo stretto sì e invece la banda larga no. Io ripeto, non è un problema di fare la guerra della coperta corta, è chiaro che il ponte costa 6 miliardi, che il MOSE ne costa circa 4 di miliardi, il MOSE a Venezia, però un paese dovrebbe cercare di tenere assieme tutto se ci riesce. Dottor Stefano Parisi, che è l'amministratore legato del gruppo Fastweb, buonasera. Buonasera. Allora, io è chiaro che non le chiedo neanche se la banda larga è utile, è il vostro pane quotidiano. Cerchiamo di far capire una cosa, perché si dice che queste sono infrastrutture altrettanto importanti quanto giustamente i passanti, la terza corsia, eventualmente anche i ponti? Beh, perché ovviamente hanno una funzione straordinaria nella circolazione delle informazioni, che vuol dire dati, voce, immagini, anche immagini televisive, e questo può facilitare molti rapporti, sia rapporti economici che rapporti di servizio pubblico, e può raggiungere ormai tutta la popolazione italiana, migliorando in modo consistente sia il livello di efficienza del sistema economico che la sua produttività. Quindi effettivamente è un investimento che il Paese deve fare e che porterebbe e porterà il Paese ad essere più competitivo, più efficiente e probabilmente anche accorciando certe disuguaglianze culturali e sociali di cui ancora il Paese soffre. Quindi è uno strumento sicuramente importante al pari dei grandi investimenti infrastrutturali. Il cosiddetto digital divide, cioè le differenze che si rischiano altrimenti di creare tra una parte del Paese, aree geografiche e settori della popolazione connessi in maniera veloce e chi invece non è connesso per nulla? Sì, certo, c'è anche questo tema. I temi sono due. Uno è questo, di cui parla lei, che è importante, cioè c'è ancora un'area del Paese che deve essere raggiunta, che si dice essere intorno al 5-10%, che non ha la possibilità per motivi tecnologici di essere raggiunta da una rete fissa a banda larga, e questo problema deve essere assolto ovviamente da una serie di investimenti importanti. Soprattutto l'investimento più importante, l'aspetto più importante è quello che più tecnologie possono concorrere alla risoluzione di questo problema, non soltanto la tecnologia a banda larga di rete fissa, quella che oggi conosciamo con il nome di ADSL, ma anche altre tecnologie che possono essere quelle radio, cioè o satellitari. Il radio vuol dire la banda larga via telefono mobile o comunque le chiavette che consentono una copertura maggiore, più semplice in queste aree, e il satellite. Eutelsat l'anno prossimo lancerà un satellite dedicato solo alla banda larga dati, che potrà coprire il 100% del paese. Quindi credo che in questa direzione si andrà e il problema del digital divide sarà risolto in tempi relativamente brevi. Allora, io faccio notare che in Norvegia, per esempio, la banda larga è un diritto, non è un lusso, perché alcuni ancora pensano che sì, vabbè, ma perché devi navigare così veloce? Attenzione, è un diritto. E per quello che riguarda poi i temi specifici di questo programma, quindi le imprese in questo caso e il tessuto economico, attenzione che anche in questo caso un'impresa italiana che dovesse competere con un'impresa tedesca che ha una connessione 4, 5, in alcuni casi 10 volte più veloce, è chiaro che si trova ad avere dei limiti in quello che può far viaggiare, nelle informazioni che può ricevere, nel materiale che può spedire via banda larga. Allora, mancheranno questi 800 milioni, perché dire che saranno congelati fino alla fine della crisi significa che per ora non se ne fa nulla. Voi, Gianni Letta ha detto oggi, si può ricorrere anche al mercato finanziario. Voi avete un impatto come Fastweb, di cui lei appunto mi è delegato, da questo blocco dei fondi, oppure è pensabile, auspicabile che comunque si vada avanti in un progetto di banda larga anche senza i fondi pubblici? Aspetta, mi faccio fare un piccolo passo indietro. Prego. La rete a banda larga in Italia è tra le più avanzate d'Europa. Non è vero che noi competiamo con la Germania e con la Francia, che hanno una rete migliore della nostra. La Francia ha un obiettivo di raggiungere 4 milioni di abitanti, sì, di famiglie con la banda ultra larga entro il 2012. Oggi in Italia c'è una rete in fibra ottica ad ultra banda larga, cioè FTTH, cioè che arriva la fibra a casa dei clienti, delle famiglie italiane, e che copre 2 milioni di famiglie italiane. Essa rappresenta il 40% di tutta la rete a banda ultralarga di tutta Europa. La più grande rete a banda ultralarga d'Europa è quella italiana. Quindi non è vero che noi siamo indietro, noi siamo più avanti degli altri, soprattutto questi investimenti sono stati fatti da Fastweb, ricorrendo al capitale privato senza soldi pubblici. È evidente che quello che manca adesso è portare questa rete, questo modello di rete, ha una più ampia porzione della popolazione. La tecnologia ce l'abbiamo, siamo più avanti degli altri, non soltanto come Fastweb, ma tutti gli operatori italiani, a cominciare da Telecom, hanno una esperienza in questo mondo molto avanzata, quindi non siamo indietro. Rischiamo di essere indietro, ovviamente, se ci fermassimo qui, perché gli altri paesi stanno facendo di più. Però bisogna stare un attimo attenti, perché gli 800 milioni, vengo alla domanda, servivano a risolvere il primo problema, quello del digital divide. Noi non possiamo dare il governo italiano non può dare 800 milioni certo. a Fasso per sarebbero coprire, aiuti di Stato per coprire Torino, Milano o Venezia certo. Lo può fare soltanto per dare nelle aree del digital divide, mentre invece tutto quello che avviene nell'area non del digital divide deve essere fatto a condizioni di mercato, e questo è un grande problema perché Telecom Italia è oberata da un pesante debito e quindi ha un piano che però traguarda purtroppo al 2016, quindi molto lungo nel tempo, e probabilmente la domanda di banda aumenterà nel breve, quindi stiamo ingegnandoci tutti quanti, a partire dal presidente Calabrò dell'autorità, noi operatori alternativi e la stessa Telecom Italia, per trovare delle formule cooperative per cui si possa trovare insieme delle modalità per poter fare degli investimenti insieme. Noi già da adesso abbiamo preso la nostra rete in fibra e abbiamo fatto degli accordi di network sharing, cioè di condivisione sì. di questa rete in fibra con Telecom Italia e con Wind, perché riteniamo che tutti quanti debbano usare le canaline che noi abbiamo messo giù, disturbando la popolazione italiana dove abbiamo fatto gli investimenti, e per poter passare la fibra anche degli altri operatori. Ovviamente noi abbiamo un ricavo da questo, però acceleriamo lo sviluppo di questa tecnologia, quindi bisogna trovare delle formule. Noi non siamo come l'Australia o il Giappone o la sì. Corea del Sud, che hanno grandi soldi pubblici, grandi investimenti pubblici, l'Europa ce lo vieta e soprattutto quindi ce lo troveremo formule miste privato-pubblico. Lei ha ragione sul fatto del digital divide, gli 800 milioni, per quello che riguarda le imprese mi riferivo a un futuro, non ad adesso. Noi abbiamo da sempre anche un vantaggio tecnologico, ma non vorremmo arrivare nel futuro con Germania e Francia più avanti di noi o nettamente più avanti di noi. Grazie amministratore delegato di Fastweb, dobbiamo chiudere, siamo assolutamente in ritardo. Grazie a Stefano Parisi, amministratore delegato di Fastweb, da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.